Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Leopoldo Mastelloni legge Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis. Il segretario, nonostante il suo ardore, prevedeva le difficoltà che avrebbe ragionevolmente opposto lo zio al suo matrimonio con una maestra, sola e senza fortuna. Ma sperare che il no non sarebbe stato assoluto lo confortava il fatto d'una passione singolare di cui pareva acceso il commendatore, uno spirito attivissimo di propaganda in favore della ginnastica educativa, che gli aveva promosso in tutti i modi durante il suo breve viceassessorato dell'istruzione, dalla qual propaganda s'era poi sdato, ma serbando una viva e costante simpatia per tutti gli spettacoli ginnastici di scuole, collegi, istituti, accademie ed esami, di cui non perdeva uno solo, essendo invitato a tutti come uno dei primi e più benemeriti fondatori della Palestra di Torino. Era appunto questa simpatia per la ginnastica che gli aveva fatto ridurre d'un terzo la pigione al maestro Fassi, conosciuto da lui alla palestra molti anni prima, e accordar lo stesso favore alla signorina Pedani, maestra di ginnastica in vari istituti, nota per la sua valentia di insegnante e per i suoi articoletti vivaci nei giornali tecnici. Il segretario pensava che lo stesso sentimento che gli aveva fatto calar la pigione all'inquilina gli avrebbe fatto scemare l'opposizione alla sposa. Da questa parte, dunque, non era la difficoltà più terribile. La più terribile era quella di arrischiarsi a dichiarare aperto a lei la sua passione. Al che s'era formidabilmente opposta per 3 mesi la sua invincibile timidità, cagionata soprattutto dalla considerazione della grande inferiorità che egli riconosceva in sé rispetto alla maestra dal lato dei pregi esteriori della persona. Da 3 mesi, conoscendo a puntino l'orario di tutte le sue lezioni, egli si ingegnava ogni giorno e più volte al giorno di uscire o rientrare in casa in quei dati momenti per incontrarla per le scale e aprirle il suo cuore. 100 volte l'aveva incontrata, ma non una gli era venuto fatto di cacciar dalla bocca altro che le più usuali e scipite parole. Non era forse neppur riuscito a farle indovinare la propria passione, tanto era tranquilla e sempre uguale la disinvoltura di giovanotto con la quale essa lo salutava e gli parlava. E così egli viveva ruminando il suo amore, aggiungendo ogni giorno l'eccitamento d'una nuova immagine a un'interminabile collezione di atteggiamenti, di suoni della voce, di mosse, di guizzi della persona che gli aveva in capo e che passava a rassegna di continuo, meditandoli ad uno e assaporandoli con una voluttà e con un tormento crescenti che non gli davano più pace. Finalmente, non ci potendo più reggere, aveva scritto la lettera. Thank you. La casa si prestava ai maneggi e ai segreti d'una passione amorosa. Era una delle più vecchie case di Torino, un antico convento, dicevano, senza soffitte, senza terrazzini sul cortile, con due sole scale mal rischiarate. Sulla scala del padron di casa, al primo piano, abitava l'ingegner Ginoni, con la sua famiglia, con la quale la Pedani era in relazione per essere stata maestra elementare d'una delle figliole che allora era alunna della scuola Margherita. Stavano sullo stesso piano due vecchie sorelle, agiate, tutte di chiesa, scrupolose a segno, che non alzavano mai gli occhi in viso ad un uomo, e buonissime in fondo, le quali avevano dapprima salutato la Pedani cortesemente, poi smesso di salutarla, dopo che per via delle persone di servizio avevano saputo che essa frequentava un corso di anatomia e fisiologia applicate alla ginnastica fatto dal dottor Gamba. Al secondo piano, in faccia al commendatore, abitava un vecchio professore di lettere, certo cavalier Padalocchi, vedovo e pensionato, un linguista terribile, dicevano, ma di maniere compitissime, il quale s'accompagnava qualche volta con la Pedani su per la scala, parlandole dei suoi malanni. Il terzo piano era tutto scolastico e ginnastico, e i due quartieri, per la vita che vi si menava, era senza dubbio i più bizzarri della casa, quello delle maestre principalmente, a cagione delle differenze grandi che correvano fra di loro, nell'indole e nella vita, le quali facevano parere strano che si fossero decise a mettersi insieme. La Zibelli aveva 36 anni ed era anche nel fisico l'opposto della sua amica. Alta essa pure, ma magra e stretta di spalle, un viso bellino ma troppo piccolo e già appassito. Non aveva che i contorni apparenti d'un corpo ben fatto, grazie al gusto con cui si vestiva, e dal suo modo di buttare i piedi si capiva che i suoi ginocchi erano troppo intrinseci amici. Doveva essere stata una giovinetta assai simpatica, aveva avuto dei capelli castagni bellissimi. La sua gloria era d'aver innamorato alla scuola Domenico Berti un giovane professore di fisica, il quale arrossiva interrogandola. Ma la gloria era antica e i capelli s'erano diradati. Aveva fatto amicizia con la Pedani fin da quando questa era entrata nella sua sezione municipale, presa subito da una simpatia di sorella maggiore per quella bella ragazzona incurante di sé e delle cose domestiche, con la quale aveva comune l'entusiasmo per la ginnastica, e le si era stretta anche meglio per soffocare con l'affetto un principio di gelosia e di invidia che sentiva per la sua opulenta bellezza. Per questo, anzi, le aveva proposto di far casa fra due, vivevano insieme da 2 anni. Ma col crescere della familiarità s'era presto turbata la buona armonia. La Zibelli si innamorava ogni momento, con un'incredibile facilità a credersi corrisposta, per uno sguardo, per una frase gentile o equivoca, per il più piccolo atto di cortesia d'un maestro, d'un superiore, d'un parente, d'una sua alunna, e sempre in queste accensioni subitanee della fantasia trovava, o le pareva di veder sorgere tra sé e il supposto amante, la sua bella amica, che sviasse l'attenzione di lui dalla sua persona, attirandola sulla propria, forse involontariamente, ma per questo appunto con un più vivo dispetto. E allora seguivano dei brutti periodi, durante i quali essa non la poteva soffrire e attaccava questioni interminabili per un lume messo fuori di posto, perché quella si levava troppo presto, perché si faceva aspettare a tavola, per tutti i più futili pretesti, irritata anche più del non trovare alcuna presa alla sua stizza, in quell'animo sano, in corpo sano, in cui circolava la vita rapida e calda, e pareva che l'operosità continua ed allegra soffocasse ogni senso per i piccoli screzi della vita domestica. Poi la Zibelli si incapricciava ad un altro, e finché l'illusione durava, tornava con essa all'amicizia espansiva e protettrice dei primi giorni, aiutandola a vestirsi, divertendosi del suo disordine, compiacendosi quasi dell'ammirazione con cui la vedeva guardata. Se non che, Via via che le delusioni si succedevano, come ella credeva per cagion di lei, le manifestazioni della sua acrimonia s'andavan facendo più forti e duravano più a lungo. Ora, quando era in uno di questi periodi, non le si accompagnava più per andare a scuola, sparlava di lei coi vicini, stava delle intere giornate senza aprire bocca, o la contraddiceva ferocemente dalla mattina alla sera, ma sempre senza riuscire a metterla in collera. Nelle discussioni l'amica le dava ragione quando l'aveva, ragionava pacatamente. Nel caso contrario, non dando importanza altro che al fondo della cosa, e quando la Zibelli le teneva il broncio, si contentava di guardarla ogni tanto in atto di curiosità, seguitando a fare gli affari suoi naturalissimamente immutabile nella sua amicizia virile, senza tenerezze e senza grilli, la quale non dava molto ma pretendeva poco. L'ultima rottura era seguita a cagione del maestro Fassi, che aveva ispirato alla Zibelli una calda simpatia e di cui le continue conferenze con la Pedani a proposito della ginnastica la indispettivano acerbamente, ed essa avrebbe compito allora il proponimento, fatto molte volte, di piantar la casa se la forza dell'abitudine, un resto di bontà e il non avere alcun pretesto confessabile non l'avessero rattenuta. Ma più di tutto aveva poi giovato a ritenerla la persuasione che il segretario si fosse innamorato di lei. E non soltanto era rimasta, ma era tornata con l'amica alle tenerezze di prima. Thank you. Oltre ad insegnare ginnastica nella sezione femminile Monviso, dove era anche maestra ordinaria, la Pedani insegnava alla scuola Margherita, all'istituto delle figlie dei militari, all'istituto del soccorso e alle bimbe dei soci della palestra, dando dappertutto all'insegnamento la mossa vigorosa del proprio entusiasmo. Pareva veramente nata, fatta per quell'unica cosa. Non riusciva soltanto ad eseguire per suo piacere i più difficili esercizi virili alla sbarra fissa e alle parallele. Era anche riuscita con lo studio, un'insuperabile maestra di teoria, ammirata da tutti gli intendenti per la rara prontezza nel variare gli esercizi, per la singolare vigoria del comando che rendeva i movimenti pronti, facili e simultanei, per il colpo d'occhio acutissimo a cui non sfuggiva la più piccola irregolarità di atteggiamento o di mossa, anche nelle schiere di alunne più numerose. Alla prima occhiata riconosceva se una ragazza avesse attitudine o no alla ginnastica. Esaminava i corpi malformati, cercava le spalle asimmetriche, i petti gibbosi, gli addomi prolassati, le ginocchia torte e studiava di correggere ciascun difetto con un ordine particolare di esercizi. A questo si dedicava con zelo materno, si sforzava di persuadere le madri dell'efficacia del suo metodo quando riluttavano, faceva una guerra implacabile ai busti troppo stretti, ai vestiti troppo stringati, teneva un quadro della statura e del peso di certe alunne per accertarsi degli effetti della sua cura. S'era comperato a sue spese un dinamometro per misurare la loro forza, andava facendo dei piccoli risparmi per comprarsi un apparecchio da misurare la capacità polmonare. Avrebbe voluto che si inventassero dei congegni per misurare la bellezza del portamento, la destrezza, la facoltà d'equilibrio, ogni cosa, e oltre alle sue lezioni si occupava di problemi tecnici speciali. Teneva dietro ai vari congressi regionali dei maestri di ginnastica, registrandone le deliberazioni, leggeva quante opere straniere tradotte sulla materia le capitassero alle mani e non perdeva un numero dei 10 giornali ginnastici d'Italia, di parecchi dei quali era corrispondente. Uno dei suoi articoli sull'utilità pratica del salto, scritto con garbo e con forza, aveva destato l'ammirazione del maestro Fassi e dato occasione alla loro amicizia, la quale peraltro era da parte del maestro un po' interessata, poiché pieno di idee e di cognizioni nella sua scienza, egli mancava affatto di stile come il maresciallo di Émile Huger e anche un po' di grammatica, e la Pedani provvedeva mirabilmente alla sua deficienza, convertendo i suoi appunti in articoli ai quali egli metteva con mano franca la propria firma. Ma la Pedani, che non scriveva per la gloria, non se ne curava. Tutta dedicata alle sue scuole, in giro tutti i giorni ai quattro angoli di Torino, a tavolino a studiare, quando non era in giro, occupata da sé sola in esperimenti ginnastici, quando non studiava sui libri, essa esercitava infaticabilmente il suo apostolato per la rigenerazione fisica della razza, senza avvedersi né dei mille sguardi che si avvolgevano da ogni parte intorno al suo bellissimo corpo, né delle invidie e delle gelosie che suscitava, tanto che chi la conosceva da vicino la considerava come una natura di donna misteriosa, refrattaria all'amore e quasi priva di istinto sessuale, e l'ingegner Ginone, a cui piaceva di scherzare con lei, la chiamava la vulneratrice invulnerabile. Avevano la Pedani e la Zibelli una donna di servizio fra tutte e due e una stanza che serviva di salotto comune. Erano lì appunto tutte e due alle 7 di sera, dopo aver desinato, sedute a un piccolo tavolino rischiarato da un lume di benzina, e la Pedani sfogliava sotto gli occhi dell'amica, che le teneva un braccio intorno al collo, la ginnastica degli anelli del dottor Orsolato, quando venne la portinaia a portare la lettera del segretario. Thank you. La Pedani fece entrare la portinaia nella sua camera per ripeterle ancora una volta quello che le andava dicendo da un mese, di non torturare più la sua bambina. Aveva una figliuola che ingobbiva, diceva lei, e s'era lasciata persuadere da un bottegaio ortopedico del vicinato a metterle un busto di lastrine metalliche, il quale, premendola troppo al costato, la faceva soffrire e strillare come un'indemoniata. La Pedani voleva che la mamma buttasse via quello strumento, cagione possibile d'una consumazione polmonare, e che affidasse la bimba a lei per la cura ginnastica. Ma quella non ci credeva, e anche questa volta le diede la risposta solita. «Ah, ci vuol altro che la sua ginnastica, signora maestra! Mi fate pietà!» le rispose la Pedani. Poi, uscita la portinaia, guardò la soprascritta della lettera di cui non riconosceva i caratteri. La Zibelli si alzò come per uscire, ma l'incertezza del suo passo mostrava così poca voglia d'andarsene che la Pedani le disse di rimanere. D'altra parte, essa non faceva segreti né con lei né con altri. Aperta la busta, guardò la firma e cominciò a leggere senza dare alcun segno di meraviglia. Solo quando ebbe finito, sorrise, tentennando il capo, con gli occhi fissi sul foglio come se per la prima volta le si chiarissero alla mente i vari indizi che le avrebbero dovuto far prevedere quel caso. La Zibelli, punta dalla curiosità, ma trattenuta da quel silenzio, non osò far domande, ma seguì con l'occhio tutti i suoi movimenti. L'altra si alzò, buttò sbadatamente la lettera nel cassetto del tavolino dei libri e, avvicinatasi all'armadio, prese il suo cappello. La Zibelli si ricordò che la sua amica doveva andare al Club Alpino a sentire una conferenza della contessa Palazzi Lavaggi sulle ascensioni alpine delle donne. Un'idea le balenò, ma per stornare ogni sospetto disse sorridendo: «Ah, tu fai dei misteri!» «Non è un mistero», rispose la Pedani con indifferenza. «Te lo dirò poi», e si mise il cappellino alla Carlona. La Zibelli, scherzando, l'accompagnò fino all'uscio. S'andò ad accertare che la serva era in cucina, rientrò lesta nella camera dell'amica, pigliò la lettera nel cassetto, guardò la firma e impallidì. Leopoldo Mastelloni ha letto Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolanti e Anna Marzetti, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.